se gli servirà un barista esperto, capito? Intervistarlo quando tu primi qualcuno che abbia bisogno, dipende solo dopo tre matto, già, se solo cavo le cose, hai capito, riusciamo a fare qualcosa, se no siamo fregati. Vabbè, siamo fregati, sì. Non hai capito quello che stavo dicendo. Ho detto che quello che c'è dietro Carbonati lo deve mollare. Ah, quello dove siamo andati noi due? Dove siamo andati noi a bere la birra e il caffè. Lo deve mollare perché no, dice che le spese sono troppo alte. Vuol dire che non ci sa fare. Se no, guarda che c'è, l'altro giorno sono andato in quello che c'è, visto in via Milano c'è quel campo di calcetto dove va la Torres. L'ha preso un tipo, si chiama Circolo Sassari si chiama. L'ha preso da pochi giorni, l'ha preso. Ha detto che adesso controlla un paio di mesi, prova. Se vede che cassa bene se lo tiene, cioè, se no lo molla. Ma è grande quello, me. Cazzo, ti sto dicendo che è una cosa allucinante. Quello se l'avevate preso tu e tuo fratello avevate fatto 13 di lavetto. E più di 200 metri quadri quel circolo. Ci puoi cucinare, c'è la cucina, puoi fare piatti pronti, puoi fare di tutto. Lì c'è il campo di calcetto, quindi ho voglia di gente che va a bere lì. Fanno già lo sai che gli gioca la Torres. Già lo so. Sono andato l'altro giorno, sono andato, per sistemare insieme a me, insieme a Franco sono andato, ha sistemato la ventola del come si chiama, dell'aspiratore, quindi, ma è grande, è me, non pensavo che era così tanto grande quel circolo, ci sto dicendo che è più di 200 metri quadri, più c'è tutto il resto dietro, c'è i bagni a norma, come si deve, larghi, ci può entrare in carrozzina. Quello è bello da gestire quel circolo. Ma beverei quanto ne vogliono. Quello basta che... quanto ne vogliono. Basta avere un fondo. Organizzare cosa ti posso dire. Pranzi di coso. Feste di laurea. Ce ne sta poca gente dentro. Adesso vediamo. Vediamo Antonio, è tutta la questione, se c'hai il finanziamento buono lo puoi fare, se non c'hai il finanziamento buono ti attacchi al tram. Non ti sento più Giuseppe. Ho detto, se c'hai il finanziamento buono lo puoi organizzare, se non c'hai niente non puoi organizzare nulla. Mi senti? Giuseppe, non ti intendo più. Mi senti Antonello? Antonello? E adesso ti sento. Ho detto, stavo dicendo, se c'hai finanziamento buono, puoi organizzare, se non c'hai nulla, è come fai un buco nell'acqua, mi. Già lo so, tra me. Hai capito? E io già ho capito. Ma clienti ci vogliono, tesserate più che altro. Bisogna fare il giro dei cose, invitare tutti per fare la tessera, dopodiché, quanti posso dire, se stato cambiando le cose. Ma è grande, mi dici. La birra è 2 euro lo stesso. Ha voglia di posto, poi farci pranzi, ti puoi sedere, ci sono, mi sembrano, c'erano i tavolini, figura di due. Antonello? Ehi, dimmi tutto. Mi senti? Sì, che ti ascolto. Sono con l'antenna adesso. Con l'antenna grande, sì. Figa, com'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segnale 3, sì. Ora arrivi bello, perfetto e chiaro. Già va bene, dai, già va bene. Non pensavo che non sentirti. No, già ti sento, non ti preoccupare, ho voglia. Adesso è che se domani mattina si mette a piovere, se no avevamo sceso tutto in terra. Andiamo a beccare 3-4 giorni, ma non scendere con l'antenna lì in terra, abbiamo 27 L, sistemarla bene. E una volta che l'abbiamo sistemata, poi ce la rimettiamo su insieme all'altra. Facciamo il foro, un altro, col trappano, così c'entri il cavo per la V. Va avrei chiesto a quella persona se avevi trovato il cavo. Mario me lo stava dicendo, Mario Chine, che c'aveva 100 metri di cavo. Non te lo dà. Devo chiedere a quanto ne vuole, cosa ne so io. Adesso quando lo sento lo vedo, glielo chiedo. E io dici, guarda che se lo sta dando, che ti serve a te quel capo, poi ci arrangiamo noi. Sì, vabbè, non c'è problema. Beh, il telefono funzionando bene sta. Eia, sta funzionando benissimo, almeno non devo stare a sventiare, ogni volta 20-30 euro, li mettevi 30 euro, duravano 4 ore a 20 minuti, e alla vola, fammi la vai. Sono andato là, due sim, 22 euro, 10 euro di carica ciascuna, sono, in più c'ho l'altro telefono di riserva, quello arancione, li ho messo la carta, e quello funziona benissimo. Almeno nel caso si scarica uno c'ho l'altro di riserva. E fai bene Antonio, fai bene. Non deve stare così, cioè a volte si scarica, capita sempre poi magari quando è nel momento di bisogno a me. Come è capitato quella volta che mi ha telefonato, sì, cosa Giovanna, hai uscito, c'è tuo fratello là, che ho chiamato già l'ambulanza, eccetera, c'avevo il telefono scarica. Gli ho detto Giovanna, tanto ogni volta che mi mandi là, gli ho detto sempre col telefono scarico devo andarci, io ho detto, non posso mica portarmi il caricatore appresso, ho detto. E muoviti, dalle 9 sono rimasto, ne è uscito a più della 1 di notte. Hai capito? Io il telefono a zero, non potevo né ricevere né telefonare, nulla. E tanto meno mi sono portato appresso il portatile per dire, per fare con casa. Ho capito. Via, per carità. Vabbè, pranzato hai. Ehi, ho pranzato. È a posto. Almeno così sono tranquillo. C'ho il telefono di riserva, se per caso quello di mio scarico, uso l'altro. Sono tranquillo. Se no è un casino. Capito? Ui. Vabbè dai, che sono in terra dalle 5 a mezza di mattina. E non sei facile, mungendo pecore. No, sono andato a asparagi. Ah, asparagi è andato. Non si guadagna un cazzo con gli asparagi. Con i fiocchetti poi guadagni un sacco di soldi, se li fanno pagare, quelli di campagna. Basta andare verso la zona di uso, sai quanti una ciappa dentro quelle tanche aperte. Poi sono le pecore, è pieno lì di cose, di finocchietti selvatici. Quelli sì, fai 10-20 mazzi e ti fai più di 30 euro. Lo so, però noi siamo andati a Usic. A Usic ci sei uscito, che cazzo. E di benzina quanto ci hai messo? No, sono andato con Nico. Abbiamo... Siamo tornati alle 10 e mezzo. Ah, ma stamattina sei andato. E non se ne fanno i coli di asparagi? A cucinarsi a pranzo. E allora, con le uova. Facevi mandare i finocchietti, facevi le fave, cazzo. Dato che c'eri. Se c'è 5 di mattina per gli asparagi e fai così per le uova, ci li metti in benzina. Secondo me. A meno che non vai con campagna, ti fa un po' di aranci, qualche campagna abbandonata, un po' di mandarini, li segui, allora sì, con le cassette già ci segui il divertimento. Sì, vabbè. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi, dai, che mi riposo un po', dai. Sì, d'accordo. A dopo. Ah, ciao. Ola. Chi è? Ciao Pompù, puoi passare sul 10 che io ho cambiato la capsula col microfono e l'ho messo a posto un po'. Volevo sapere come scivo di radio. Ehi, la posso passare, non c'è problema. Sì, passa che non c'è nessuno. E me ne sono capizzato. Uffo! Bello, ti sveglia, la guerra è finita! Uffo, non mi tosci! Oh, gufo! Franco, mi ascolti? Sì, stai uscendo male, dai, non ti capisco. Ehi, l'antenna del rete. Attento Franco, mi ascolti? Attento Franco, mi ascolti? Franco, rispondi in 27. Mi ascolti? Rispondi in 27 se mi ascolti. Che qua non ti capisco. Beh, certo, guarda, si è chiesto la radio, lo sappiamo, il 48, ma ieri stavo guardando anche il computer, e il 48 addirittura 70 euro, 60 euro lo stanno dando, nuovissimo, addirittura naturalmente comprato da privato, però nuovissimo, perlomeno visto in fotografia. Che cosa giù? Franco, mi senti? Sì, Franco, tu sei? Franco, mi senti Franco? Attenzione Graziano! Bello bene, forti siete! Oh. E cosa se ti conviene? Ho fatto un'anima oggi! Ore! Nella 27 con Gian Maria! Oh no, adesso non la metto, sono già risvegli, E allora chi c'entra da chiusura? A chi non vede, non vola, se così sta sola. E adesso è accesa, forse c'era qualche pecora. Non fa mai nessuno, rimane non vede la pecora. Se c'è già matta, arriva la sera verso Risetti, ne non vedrà nessuno. Proprio prima delle 7 l'ho spento io, se non c'era nessuno. È stata tutta bella, si ravvisa. Anna Baida. E che festa c'è da fare? Sì, la pentolaccia, qualcuno si è andato così sul gabbo la pentolaccia. No, c'era nessuno l'ho fatta, disse, ma oggi ho tutti mangiando prigioni, chissà cosa che faccio in cenni. Certo, io sono tornato. Che erano le 7 meno un quarto, l'ho acceso, non verrà nessuno. Io l'ho sentito a quell'ora, era sempre acceso. Altrimenti non verrà nessuno e mi ha detto nulla. Cosa vuoi va? Gian Maria si è sentato 5 minuti. Ma con Gian Maria rimane argentino, evidentemente era in campagna. Deve essere. Penso che era in campagna. Sicuramente. Uiaia. Andemmo e andemmo. Ma capacchi c'è ancora gentisio. Qui ci sarà con te il pigella tutto con te. Abbatte il canarino. Allora noi ribassiamo, come chiamate sacco di roga? Però ci sono le valigie. Partito è tornato e tu pronto sei, ti non vedi mancare male. Tu eri partito in campagna a zappare. Diglielo tu. Ma deve essere che stava zappando e non poteva rimanere. Ma io quando lavoro, alza che io lavoro, so come te oriri. Io me le sudo i soldi che la roba che mangio, capito? Non come te, tu te lo puoi permettere. Io purtroppo devo sgobbare e sudare. Il dovere tuo fai. Non devi farmi lì, devi andarmi lì a sappà, vero Tore? dai, andiamo. E digli l'attore dove devi andare, digli l'attore dove devi andare. E se le valigie le hai preparate, digli l'attore che non mi crede l'attore. Allora in Africa devo andare, chi vivi, se rimane la pensione tutta e tre, attore. A chi lo che dai un pezzo di dati, lasciati la maglianetti. Infatti, un pezzo di redazione. Sì, tu l'erano intervistati. A chi sono la batta nel figlio a 2.200 euro di pensione, imparerà a morire. E ha detto che no, che non l'abbassavano, e chi dà invece a Fenni, lo signore Fenni chi dà. Ma se tu abbia chi dà, va, lo fai tu, signore, no? E allora, glielo credo, lì ti puoi far mettere tutto, no, come sei occhi, non puoi andare a camminare tu a pizza. Oh, nuda, non puoi uscire di casa, subito di là, basta che apri l'occhi di là. E per forza, e la respiri non la paghi. Basta stare con l'occhi serrate, così non impendiamo di là, io ho pensato di fare così. Invece allocano la mano e si ribigliano i romatecchi, pure se sei con l'occhi serrate, a te l'immaginetti. Perché è bello l'occhiale adatti, pare di là. Io vanno a bruci, così non è fatto nulla. A me passi di rumassetti, oramai. Basta che picciati e vi voli di là. Ma lì da tazzate le fere, mi. Chiamagliamo rumassetti, però, a notto. Ah, io sì. Questo sì, io sono andato di preoccuparmi. Però si anda in via di azienda a Londra, A Londra non penso che ne avanziano assai, anche la vita è più cara. Più cara, Sì, l'euro non è più asso della sterlina. L'euro, no, la sterlina è più alta dell'euro. Oh, io avevo capito così, allora grazie. Figlia tu bevi a me, puoi dire che la valigia o dentro il serbatoio di la bomba, ragazzi, ti puoi dire, macro, non ti scoppi, puoi buttare tutti lì anche voi. E vai a Londra allora, capito, grazie. Oh, a Londra, prima era preparata, va, c'ho mentendo i burrichini, i pam. E gli sterlini, prima di saggiare avanti i macchi chivi, fra poco ci si fuggono i burdai chivi italiani. Passo a chi? Pare a chi si gradia l'Italia che ha acciappato in America a Londra, no? E invece l'ha acciappato la Mondezza pure a Londra. No, l'unico posto è in Brasile, ha fatto vedere chi sta coppia in Brasile, a faccia a mare, ci ha recuperato, anzi no, in affitto, una casa, a occia al mare, due bassi dalla spiaggia. Pesce, brecco, ugnaria, magna, gambarone, aragosta, e no che ha detto si risugnava una cosa del genere. E la fitta che mi paga ogni villone, 300 euro paga. Però da 1.600 che prende me le avanzano un sacco di sushi, può permettere di mangiare tutto questo che vuoi, di uscire, andare al cinema, insomma di girare, da. E allora c'è cosa fai, grazie. Non vado più a Londra, fai la disletta, i biglietti e fai il Brasile. Portati tutto, i mobili, tutto quanto, poi a casa a cosa? A Rubinoccio, e ti dà di Brasile, a Marco capivi, si bosa faccia a mare, pesce vergogna lì. E così a gran carriera. Ti senti che gioco me. Solo che ti devi pulire, ti devi pulire il sombrero e ti fai la siesta, la sera, roba che no, che non ti devi fare siesta. Meno dopo. Infatti, in Chivi non conviene andare perché sono di gruppo. In Inghilterra anche troppo caro. So che in Inghilterra, a Londra, in Chivi si andi, in Chivi si vuoi lavorare, la c'è più subito il lavoro. Se vuoi fare un pensionato, fai il pensionato, è dello stesso, solo che tu devi pigliare, se uno deve andare, devi pigliare, se a treno, e metropolitana devi viaggiare. E non rimassali, la bestia non rimassa proprio le viaggia, gatta, da, non fa danno, a Londra non fa danno, vai in Brasile direttamente, grazia, dica a Rosi, cambia faccia la risvetta. Se ho detto che essa non le piace, chi fa questa cosa, se si muore sul il fare di tutto, allora lo conviene. Allora vuol dire che vuoi andare, ma è tu che stai dicendo sempre a prendere le valigie, poi per il passì, non vuoi andare a Londra, non vuoi andare in Brasile, a dove vuoi andare, allora, a fonde. Vicino alla Norvegia, lo mandemmo, vicino alla Norvegia, a pigliare pesce. Andare, o si va all'Alaska, a macchi chi non paghi niente, mi anzi, se fate lo prendo si andi a peccare i visti lunghi. E beh, lo implichi bello bene, ho inciappato ci sei, ah già Rosi se ne sei da fare la disvetta. Ehi, come andare in Africa? E chi, così non ce ne andiamo tutti canti in Thailandia. Così che vi mangiamo le serpenti. Oh, ma che grassi subito, gatta. Dammo li mette per il rosso il tuo puro. E chi per tutto buono, me? E chi vi mangi tutto? Grilli, gattarani, gatto e rifarmi la pensione, vero, do? Se ti piacciono i grilli. Non sono rughissi, no. Arruggio si rifati, sotto. So che ci rimbiasini. Senta, a me che crescono i negri lì in panza. Grazie. Senta, allora, cazzo, anche le bisca ci mangi, no, grazie. E allora, chi vi si mangia tutto, e ridinati da macchi, e chi vi mangia il cazzo a insetto che fai? Anzi con la retina in giro di fare i macaroni di insetti. Anzi dopo il bisogno allora di bilanciare la carne mazzinata, no? E da voi a voi ha viso sorci arrosso in quelle risaie, sono tutti pieni di sarroni. Ma il riso è sarroni, torre me anda. Sì, insomma. E ti racciappi in mezzo, ti racciappi, bassi ingenni. Ha visto un documentario al televisore stasera, le risaie di un azzurro, cante, non sappiamo se era giapponese o cinese o cosa era. Cante l'uomo era. E qui ci hanno quasi compreso a proprio, ecco. Ha detto che viene in mezzo alla risaia, viene un bel giorno qui. Più manne d'eddu. E a chi ha i giorni che hanno inventato, hanno provato, chi non riso, gatta. È buonissimo, allora sono andando a mangiare che dà, capito? E da voi, la gente si mangia i rospi. Ah, chi se la ciappemmo ogni arugula, ciappemmo. Ah, se no, bigattini, un be. Ma sono rospi, no, sorci, sarroni. I ricampi dove piantano il riso, no? Tutto pieno dei sarroni. E a chi fate le concime, allora? Senti che andiamo, dove andiamo. Ma non è proprio Bacchisio. Ma chi ci sei? Sta raccontando un bisello, oh, papà, grazie, così è. Bisello, bisello, aspetta che rientro subito, che mi ritiro questa cosa che c'ho qua su. Ah, lo sento da mangiare. Io credo che andate da mangiare. Sì, signor Bacchisiomi, buonasera. Sì. Ma tra un piede e l'altro e una mano e l'altra. Non lo so, gubo. Ma costruendo stai. Ma stai costruendo una antenna. Ma allora no, non mi metto in mezzo io. Aspetta che andiamo per... Beh, il signor Giomarini. L'ha dato un progetto Giulio e fa scippare l'antenna, gatta va. Così, Bacchi, non ti sento io, Bacchi, comunque, buonasera. Mi hai sentito troppo sera perché non ti sento. Capito, mi lascio a Bacchisio. Ma chi? L'hai ascoltato? L'hai ascoltato, Gio Maria? Non lo senti? Forse con quell'antennalino l'ascolti. Gio Maria, non ti ascoltano? Aspetta che sta cambiando antenna. Nemmeno io lo sento, capito? Strano però, Senta Graziano, a te che è a fondo scala, però a lui non lo sento. E non, nemmeno io sento a lui. Vabbè, vediamo un po' questa altra antenna se riesce a arrivarci. Cambia carta carbone, Gio Maria, se non cambi la carta carbone non mi accoppi. Buonasera, tutti muti. Poi, signor Bacchino, adesso sì che lo sento. Ebbene pure. Poco segnale, però la voce è bella, squillante e va bene. Allora, cosa ci racconti di bello? Cosa hai combinato di campagna? Ma quasi niente, sono sceso stasera perché stamattina ero con te a cacca per scucirmi, mi hanno scucito, dunque adesso tutto a posto. Meglio così allora, tutto sia tranquillo. E va bene ugualmente anche per lui, Bacchi. Ok, riprendi e fai chiamata a coso, a Graziano. Detto te che deve partire a Londra. A cavallo con un vacunito. Capito, a Londra devo andare. Lascia andare, noi andiamo a Londra, chi sono andato a vedere le donnine? Addirittura c'è per fare delle valigie, perlomeno. E ha detto a una persona che si stava preparando le valigie e doveva andare a Londra. E si portava anche il PMR dentro la valigia, che lui era autorizzato a passava tutto quello che voleva. Come a me me l'ha detto così. Però lui dice che non ci vuole andare a Londra, dice che va in Brasile. E allora, meglio Brasile. E poi quando va in Brasile... Gli diamo anche il prezzemolo noi. Ma prezzemolo ce n'è a Busefa lì, mi Bacchi. Ma no, c'è solo Brasile lì. Caspita, riprende, signor Tro. Caspita. Nasce un mezzo di prezzemolo. Andavo a Ciammari. Che vi dice qui tre Gianni Buro in Brasile? Cosa dice quel senso? Arriva che lo fai? Ammetti le possibilità della pensione. E da voi vivi a forza d'aria. Cacceria buona lì. Certo che andiamo dove andiamo. Che meglio rimani no, che meglio rimani. Manco vai aria pura qua. Pure si vi giombe di dasci. La bagà. Ma ci andate che dazzi lo finirete a bagare, mentre i loghi li baga i dazzi, mentre i dazzi di loghi i dazzi li magna, così è Bacchi. Bisogna mangiare, capito, bisogna pagare le tasse e mangiare. Vedrai, dal 4 marzo non si pagano più tasse. Vota 5 stelle, tu a fuggidini. No, 6 stelle io voto, no, 5 non mi è avviato, ma 6. Capito? Calcola di così, ma raggiù, ti ha fatto ripresa gli agat. Conta che ti dirà se insomma niente, che dai, fa di lutri, dai, non lutri. Ma fa tutti i tigi della medica, che soffenni, che la batte all'altra. Tutti dai di annotri, che soffenni, i cigli. E ma niente a quattro canacchi, sai niente. E noi morendo di fame. E hai zitta, noi nuda, ancora noi nuda. A poi da quanto su bambino zitta, in esitai. Ci avete andato a mangiare i poveri, si di nato, non ti avete figura che l'hanno fatto. E magnuno di tira giù, gli adizi, niente su a Berlusconi. Aumentiamo le pensioni, aumentiamo quello, diamo quello, diamo quell'altro. Adesso il logo. Ogni avvau, raga. Spazio, se non vi so di là, ce li sono mangiati ieri, di là. A Bacca Italia dice che non dà più di là, da, capito. A chi si riso il cascetto di tanti edri, di là. Da Rugrillo, tantissimi miliardi euro che sono pigliati, gatta, romesi, gatta. E forse non ti so di là. Chi si più nani, più ne vuoi. Che ce la fottirà assai di noi. e noi in casa tutta la dimanna che fa in mezzo alle tempere, ma la giusti, e volete di fame, gatta, e di feccia la bacia all'astra, ma niente di vendi, gatta, tutti spasati di tutti. E so poco pure, solamente mi intende, so poco. Sto a fare lo tanto, io usco per mangiare. E va però già, dallo 4 marzo, mangiamo noi di più. Si aumenta le pensioni, si aumenta la ruzzi, si aumenta l'eva, si aumenta il telefono, si aumenta tutto. E dopo tu andato a mandare le voci, ma c'è da mercato. Diciamo che è già aumentata la ruzzi, era un gas buono. Caccia, come immaginà, non basta, ancora è nuda. Più va, pacchetta, non se ne so di una cosa, il biglianetto, capito? Allora si cracca a noi, peggio un po' che si soldenti, chi si può si soldenti, a voi si ne ribigliare pure, capito? Allora, tassati e ritassati, non c'è religione, no. Non c'è più religione. Bisogna andare a comprarci un bazooka e ammazzarli tutti. Lasciate a me, meno male che per Graziano la sanno, non ha problemi Graziano, lui vive di rendita, forse è tante di quelle cose, non fa problemi, solo Graziano però, noi no, meno Graziano. Ehi, va giù tutto, ma chi, cosa vuoi che dica? Chi sa fa, ma cresciuta, Fava è crescente, lascia la crescita, Fava. Da che è cresciuta ne tagliamo. Riprendi che rientro subito, c'ho Margi, ma c'ho la tubaoletta. Basta. Dito vai sì, a fare di setta subito, di rovinette di andare a Londra. Dito vai, grazie. O di filava, dai. Non lasci la risposta. Avanti, signor Tò. Dai. Che andiamo bene oggi. Tra poco adesso ci avrai la neve in campagna, mi bacchi. Ehi, lascia va. Che io da cogliere la fava io da voi. E se no Graziano non ti vado a bagnare la fava. Mi aspetta il telefono. Che cogli la terra che il telefono, non so che c'è la cucenda io. Tanto è la foto fa mi sa di ti faccio un regalo, un dente di zigoro. Bacchigio, Graziano. Lo penso Bacchi, ma è donna che sa voi c'è la fava. Graziano con la fava, forse per la fava. Io già per l'occhio la fava. Oh ragazzi, io mi assento che devo andare a prendere la signora. Sentiamo dopo se vengo prima. Ehi, dai, ci sentiamo poi. Poi saluto la signora. Ciao, ci sentiamo la prossima. Ciao. E così è Bacchiglie. Vai, l'hai visto che sta a farra le malamortrona. Ma sta a farra il malvotto. Aspetta, tutti bla. E da voi. Oh, che si è visto. Sì, ma che mani che hanno seguito la campagna? Perché ci ho volato la cosa qua in campagna, Fede. Ci ho capito, lei aveva una valigia di cose, di bambino, di tutti i colori, di tutte le nazioni, i santi dalla mare, il mutatore più contento che mi ha lasciato di fuori. Allora, tutti si tirano, i bambini si sono fedi, si riavviene a dare i bovari, insomma, le infami, che ha stato meglio. A chi lo sappiamo quando andiamo a un negozio, si finne, si non finne, capito? Dare il bovari perché fa che ci canta, i pendistanti, i milioni, gatta, fa la pazzini, boh! Tanto se uno deve buttare, lo butta, se uno deve buttare, niente si può fare, sta e farà. Può fare pure uno zero a manifesti, tanto che chi dà la ragione. Se non devi buttare, non lo buttami. La giusta vorria una abbassata della buon'anima. Solo chi va, non si può fare niente. A chi? Mi sono chi di mezzo, così che è appoggiato, così non si può fare manco chi. Ma vera brutta, però una abbassata. A via, vera brutta, a vedere chi le dirà la mia lasciata un di solo. Ma hai visto la televisione Camani? Chi sono pastore che cosa che hanno denunziato che ha morso una volpe con la bocchetta? Oh, no, ma giù vicino non, ma chi? racconta, racconta. Quando mai, se tu facciappi una volpe, se mangiando dei ragnoni in un recinto, pigli la fucchetta e l'ammazzi, ti denuncia già che hai morto la volpe con la fucchetta, per cosa, non so come ti l'ha fatta andare. L'hai denunziato, anche a morto la cosa, ha forchettato una volpe. Ah, che ha aggiunto la televisione. Ti devo vedere, fate le leggi, ma è però le leggi, le so bene, capito? E chi? Hai visto a cosa, a Maristella, lì a base di Santa La Palma, in sta zona, di cinghiali, sono distruggendo tutto, addirittura i fascini retti, cazzo, di quella rete grossa, che hai fasce dentro a dentro, sono appena danno, cazzo, non riesce a raccogliere niente gli agricoltori, tutto dei cinghiali, cazzo. Sono passati, viene uno che appena a campagna, nel lampato, sai che è un muro, ma con una decina di metri di muro nel lampato, alla parte di un confinante, a chi entra da chi si abbassi. In aggiaccio di pulire rete, picchetti e cose, ogni anno fate un passaggio. Abbiamo piantato un poco di patato, e tutto quanto cazzeggato, pare che sia entrato una mangia di buchi, tutto cazzeggato, chissà che si innazza. E si già per le bocche di l'anno. Però è chiusa la caccia al cinghiale, mi pare, boh. E la pancia ho fatto visto della svolta, cazzo, ma roba la mazzi, cazzo. Guarda che veramente è una cosa, è una zanzara, cazzo, le leggi italiane che sono fenne, boh, fate il biadare veramente queste leggi, cazzo. Ma quando mai, cazzo, allora, cazzo, si va, come te lo cristiano, cazzo, a fura. Vengo a fuori da me e tu mi ammazzi, non lo puoi ammazzare, invece con te da me ammazza, con te leggere a te, a te ne mai direi. Però se ti ammazzai tu ti andavi, se tu ammazzai tu ti condannai, cioè allora? Ehi, sono... L'animale mi sono gli animalisti, che mi sono più animali degli altri, non vogliono ammazzare gli animali. Allora, le cinghiali, che ci bisogna fare le pulizie, ammazzarli tutti, se ne sono troppo, non lasciano nulla. Le volpi, sono a testi, lì si produce ogni volta, ma tanto mangiare non si può ne mangiare, cosa ne fai di una volpe? Ma è tua, ma chi so che ha fatto la tia, deve essere proprio che veramente c'è chi sassolo, sennò io ho capito, è stato una sabbessola, abbiamo compreso, sapendo che le leggi sono usili, se era cagliato mondo era andato dritto, invece no, se era si crede che aveva dato l'aumento, si è dato che ha fatto la IPA. La medaglia le date, la medaglia, dice, ha morto la volpe con la forchetta, a forchettate. Cascita, non c'è mai niente delle mie produzioni e non l'ammazzo. Ma vai, fatto pure, che c'è qualche animalista che ha preso dell'aspe, che non può ammazzare l'animale, poi mi tiri sotto all'oretto, piglia tutti i polpi, poi mi tiri sotto all'oretto, e te la mangia tu. E c'è la giusto che la gente, e si crede che gli date le medaglie, l'aumenti, capito? E allora ha fatto questo che ha fatto, miserabili, cazzo, miserabili, cazzo. Ah, cazzo, e adesso con credo ma te si andetti. Abbiamo detto cosa abbiamo fatto a posto di Chissu, a Chissu che ha fatto la pia. Abbiamo voluto vedere qualcosa del genere, a vedere cosa abbiamo visto. Sì, a Chissu gli piace avere le volpi in casa, senz'altro gli piace avere l'animale in casa, però non sa che fate ne danno. Avanti, grazie a... Meno male tu non hai problemi di questi cosi. Tu gli fai corracci e ci adora. Ma faccio inteso, no? Cosa avete detto che mi aveva chiamato Paoletta? Chi ha denunciato a chi si è ammazzato la volpe che si era mangiando i ragnoli in casa sua? Io ce l'ho avvisato dal giornale, non so che cazzo d'aria, hanno fatto strage di cani. 7-8 cani tutti in pari, tutti avvelenati là. A chi dici che mi sono troppo? Allora, l'hanno eliminato, gatta. Gatta, allora, l'hanno eliminato, ma chi? So poi di pure i laghi, i caramelli, pure. Occhio, non mangia più caramelle, grazie a chi mi sono preso i laghi, Ma io mi dico, dunque, acqua di bugni la ringa ti napisci. E ma là cos'è? Cioè certamente a sui padura breccio, Dio ma chi? Devi stare attento. E poi bisogna che si pula la croce, non lo leggiamo, questa pianta va accidenti, fatene la buca, fatene. Che pare un seme di nocciolina. E boh, che animali so? Ma li faccio vedere, rimane a sera, a la nocciolina, bretta, lo scoiattolo. No, non mi viene adesso Gio Morì. Ehi, devi stare attento, Graziano. Succende, non si lascia più a questa cosa, succende. Grazie, stai attento, guarda bene prima. Ma chi? Sotto terra, sì, ti sento basso, sotto Aruretto, sì. Sotto Aruretto, so, ma vai da se mi intendiava. E ho alzato il volume per sentirti. Sicuro che mi hai alzato il volume? Se mi ascolta Gio Maria non mi ascolti tu. Adesso già ti sento, ho alzato il volume. Scusi ti da la vaccone che ha radio. E compare c'è uno nuovo. Mi pare sia assolto. Ehi, apri lo vaccone, grazie, che sa parecchio. Vedrai che ti sente, che arriva, ma chi si? A Londra te lo porta che ce lo lascia che dà. Ma la mettesa Giulio, il computer, l'Alan 48, l'uso vendendo 60 euro, 40 euro. Che si dà chiaricotto, grazie. No, vedi, se non dai chiaricotto, capirà. No, vivi Giulio, l'era di Zenni, casina. Do a chi ho se lo compareggia. Capito, è un a noi, senti se lui mi compare senza dire a noi. Tu le la leggenda che interessava. A me di questo non mi interessa, chi capito, non mi interessa a me, perché se l'interessa è Edu. A Bacchigio l'interessava, ti interessava a Bacchigio. Di Dinamo mi interessa, ma c'è da me di Dinamo a me mi interessa lì. Capito, vai, me lo me. E Tore è caduto. Tore è andata a prendere la sua 50. Ah, già è vero, di turno avanti, mi sono cascato, ha giuvito. Ci sono trancelli, le bastelle di una piazza, roba da macchina. Cosa no? Che li so pizzichenni, che si bannelli, che vi so in piazza, che hanno buttato a recinta. Ah. E cosa li so fedi? Urendi li so. Allora si rivende, li no? Se va bisù mio. Tu carri che si offendi. Lascia rifà, ma ci fate poco di là, fa farsi la terminata. Qui pure che si cantina, quando torna non va a casa. Ah, buone, di cose, di cassone, a buone, buone i cassone si ribicciano. Tutti li sono piccini, per carità, che schifo. Capito. Da li soffè di poco, ma che c'è portazione. E noi morete di fame, di cazzo, quelli tanti vici cose, cazzo, boh. Dei messaggi a Marini, soffrendo i bestetti, i parenti di AVD, dopo i loro fornitori, mi sono ricucionati, ne sono capendo se sono pulcenti. Addirittura, tu? Se mi avvisa prima di arrivare in Graziella, se ti capiteggia, una ventina di metri hanno ricavato. Che alcuni in campagna, per prendere un marciapiedi, capito, grazie. E allora, e con chi si fa la recensione, si fa? Minima se ne ha caricato una decina, va, o gliela ci ho visto io. I sirboni la tribicia, vabbè, s'attarraggia di grazia, s'attarraggia di, e ha detto che li fa di là. È proprio vero, a tutti si attacca, roba macchina, sempre carichetti. Ah, c'è ancora Carrighelli su. Boh. Ma non piace per la completo le vanno, Sì, si va di buca a macchina, c'è Carrighelli da su. Una 600, li sono pure tutti la tranca a posta. Boh. Cacchi 600. Ah? Che macchina va? Una 600, di chi si chiama? Sì, le basini due che si cancellate dalla massa, due. Quattro nicchini, qua sotto quattro venistate. Macchi. Ma te dici, va? Un comune è andato, no? Sì, tanto da costare poco si feriati. È rete, più che altro, è rete con i due pincini in giro, può fare, so, 3 metri, ma 2 metri che si. E fate lo conto, poi andare davanti una 6 zetti, ne scorgi poco, una bocca all'altra, ya. Se ti gioco dei zenni, cazzo che c'è il macchio, passa via, buco con chi su carri così. E quanti cazzo vado a cammina? Il pericolo da ammazzare la gente. Ah, c'è lì per la cazziata, c'è lì fa. Va bene, dai, grazie, io chiudo. Ci sentiamo domani, se Dio vuole, dai. Buon proseguimento, saluto in casa. L'ho sentita Rosi da lontano, ma l'ho sentita, salutana. Anche saluto a Lorenza. Ciao Bacchi. Altrettanto, saluto in casa e a domani. Sei trattore, se ci siete, salutatemi da parte mia. Chiudo, buon proseguimento a domani. Riprende Bacchi. Ciao, grazie, Gio Maria. Salutissimi, saluto al Correa Familiare e a sentirci domani se coincide. Bene, avanti Graziano, riprendi tu. Ehi, ciao Gio Maria, saluto da parte di Paoletta. E oggi a mal di capo si è pigliato una bustina azzurra. Ha detto salutoni anche a Lorenza. Buona cena e buon tutto, a domani se coincide. E va a San Ruburui. Va bene, ciao. Vai Bacchi. Sì, allora, grazie, se chiudi tu io, tanto anche io, è arrivata l'ora del merendero, che adesso fossi lì, già quasi ora. Bene, ciao, grazie della piccola chiacchierata, saluta la signora, e se coincide ci sentiamo domani. Bye bye. Ehi, ciao, a domani, là. Buona cena, buon tutto, saluti il Correa, ciao Bacchi, ciao anche chi è in ascolto, ciao. Ciao Fabri, buona serata. Ah sì, quelli sono una massa di coglioni, già ti rifate un poco di domande. E chi è lei? E da dove sta chiamando? Come si chiama? E vuole sapere, cazzo ti so, disegni che so fanno così e così, cazzo, che cazzo ti la futti, cazzo, che hanno sotto, ma va, non ci vengono intanto. Oh, chi intanto non prepara nemmeno manco, te lo sto dicendo io, ma con non ne ha bisogno, io sono d'accordo con questa gente. Per carità, oggi erano i nuovi burigani, antidroga, la cura, e oggi sono stati nuovi che si erano venuti, ma, capite, lo fa per domani, e di chi vi citate, tre passi, e chi vi vende la tutto qua, per carità. No, ha chiuso, stavo chiudendo. E adesso chiudo, va Fabri, ciao, buon proseguimento serata, a domani, là. Ciao. Ciao. Ehi, è chiuso, non c'è nessuno.